My rent. My father name was Elijah, and my name is Ragnar Pizer. C'hai problemi di cuffie, Brudy? Sì. Allora, buonasera a tutti. C'è la situazione, ovviamente. C'è la situazione di lunedì sera. Aspetta che mi alzo la cuffia, vai. Eccoci. Allora, buonasera a tutti, lunedì. Ragnar Paisa dalle 21 alle 22:30, ormai lo sanno veramente tutti. È come ogni lunedì che si fa rispettare. Esatto. Che si fa rispettare senza bisogno di tirar fuori Kalashnikov. Esatto. Che si dice? Che fa caldo, che stanno riasfaltando la strada e ora devo andare a vedere se mi hanno portato via la macchina. Fa caldo, Anto. Hai visto, è arrivato anche la B, la I, la G, la A, A, A, ba, ba, ba, ba, ba, A, A. Vabbè. Che si fa? Tergiversiamo un altro di là in po'. Acquario c'è Bubu. In acquario c'è Bubu a fare la sauna. A farsi la nuotata. A farsi sta nuotata. Come si suol dire, a farsi una bella saponata. Beh, che di là ci sono 60 gradi perlomeno, proprio. Perlomeno 60 gradi secondo la questura, quindi fate due conti. Cioè, è arrivato il bollettino, il fax è arrivato ora. Il meteo, che c'è il maggiore, come si chiama? Giuliacci. Sì, Giuliacci. Quando dai il meteo dell'Italia, dai anche il meteo dell'acquario contro radio. Vabbè. Non tergiversiamo oltre. Bando alle ciancue. Ora ci prepariamo qualcosa di intelligente da dire per i prossimi interventi. Per il prossimo intervento. Nel frattempo c'è Bubu per i prossimi 20 minuti. A dupes. We'll be right back.

This is basic plucking or the Staunton lick. Hold down the chord of C. Pluck a fretted bass string with the thumb of the right hand. Then pluck the third, second, and first strings all together with the first, second, and third fingers of the right hand. Ospite regia, ospite regia. Sei vivo? Sì, so, cioè ho fatto una sudata all'uscio, sto grondando. E Duccio, devi andare in palestra dopo la radio, non in mezzo alla radio. Madonna. Bene, bene. Abbiamo da dire un po' di notiziole, giusto? Allora una importantissima. Diciamo la più importante, poi a calare. Allora, la più importante è la seguente. Questa settimana abbiamo messo online il quinto volume di Beat a Confronto, che è la nostra serie di EP dei beatmaker italiani, italiani e non, che scegliamo noi, come ci pare. Questo è il quinto volume e i beat sono del caro Zach. Un salutone allo Zach, che ho sentito l'altro giorno. Saluti allo Zach e Anna. Salutano la Zach e Anna. Quindi andate a prendervelo su ragnarpaisa.blogspot.com. È gratis come tutti gli altri e come tutto quello che c'è su il blog. Vi ricordo che se non ce l'avete, scaricatevi anche gli altri, anche se sono 5 volumi, sono tutti a gratis. E quindi e tutti ben fatti. Fra l'altro, ora che mi viene in mente, di prossima uscita, Bubu, te lo dico anche a te in diretta, il 10 pollici, il volume 3 di Bob Sinclair, giusto? Yeah. Non ricordo quando esce, però la copertina è viola, quindi già questo già con questo ha vinto. saluti comunque. Io gli ho dato un'ascoltata nelle preview, vabbè, bomba come sempre. È good. Quindi mentre aspettate l'uscita del 10 pollici, andate a prendervi il volume 4, giusto? Il volume 3. Di cosa stai parlando? Il volume 3 di Beat a Confronto di Tom Felag, che sono di Tom Felag, ok. Sì, che sono Bob Sinclair e Quiroga. Esatto. Recuperatevi anche gli altri due 10 pollici che già sono usciti, sempre su etichetta Bubu, rammentami. Release Wing, sì. Ah, ok. Il primo ci comunicano che il primo è già sold out. Off stock. Sold out. E vabbè, cercatevi il secondo allora. Va bon, detto ciò, quindi un saluto cordialissimo. Saluti a tutti. Quiroga e Futura. Salute a tutti. A tutti i brother. E poi questa, poi il resto teniamocelo da di dopo, se no siamo ruined. Vabbè, possiamo dire che è uscito il video di Sincero di Franco Negre. È uscito il video di Francone Negre. Di Franco Negroni, e andate su Blue Nox, cercatevi il link di YouTube. Sì, potete andare su Blue Nox, l'hanno già postato lì. Il sito di Blue Nox è www.blu-nox.com. Bon. E comunque già dal blog sulla destra ci sono vari link e ve li potete spizzare. Detto questo, lasciamo andare Biga che con la sua selezione Only for the Bambine. Strictly. Thoughts and mellow memories streets. But once upon a time, slowly creeping on me, and the linger on my mind. Just let somebody love you. I just don't know why. Whenever I get close to you, you wanna hide right. So long, I'm missing you, baby. I know we have many things to say. We shouldn't waste another day. Why don't we give love a chance? Bring back into our romance the things we hold so close, my dear. Understanding closeness fears. Life is now a different scene. The maid is only 17. Some people think that she's too young. They say her life has just begun. No reason to feel insecure. Her mind and body all so pure. I'd love to share my life with her. Seemingly I love you too. Life is so many changes I've seen. Don't you know? Loving you, finding out how much you mean to me. Now don't you know? Means as one. I love you, love. blessed now with another day. So many tests will come for sure. We'll have to pass them on and more. Soon our lives will unify, showering love down from the sky. Except the love it falls on you. Seemingly I love you too. I've seen so many changes I've seen. Don't you know? Out how much you mean to me. Thank you. fantasy girl. Madonna, man. Mi si sono cariati tutti i denti buoni e ci avevo in bocca. Questo è Only for the Bambine per davvero. Questa è la vera, l'original selezione Only for the Bambine dalle mani del la Bila e la Gila ah, ah. Prima che Duccio si tirasse su pistolettare. Poi Duccio è arrivato e ha fatto notare che toccava a lui. Ha tirato due o tre Molotov cannonate sul pezzo romantico. E vabbè, vabbè. Allora, io in realtà non ho nulla da dire come sempre. Però so di dover ricordare a tutti che sabato, chi ha voglia, sarebbe il caso di muoversi verso Bologna. Attenzione, perché c'è una situazione veramente da da birrino appoggiato sulla testa, proprio così. Allora, io non lo so, andate a cercarvi le info su internet perché non mi sono scritto niente. Comunque sabato a Bologna c'è Snoop Dogg, ci sono gli Onyx e MF Doom, più mi sa un sacco d'altra gente. Ora io mi ricordo questi tre nomi perché sono quelli bomba, veramente bomba a mano. C'è Chaos con Trix, è vero, è vero, è vero. Io però sto zitto perché non mi ricordo nulla. Ma come al solito. Non mi ricordo nemmeno io. Però mi ricordo che c'è Snoop, che di sicuro sarà con la camicia quella sua solita. Perché bisogna andare, qualcuno deve andare per tutti, filmare tutte le mosse e poi le copiamo. Ovviamente. Poi ci saranno gli Onyx con poco gas addosso. E chi non conosce gli Onyx, andate su YouTube, scrivete Onyx con la Y e la X e vedete un po' voi, insomma, il livello di incazzatura. Quando vedete dei tipi incazzati sono loro. E poi c'è MF Doom, che non so se ricapiterà di vederla al Giro in Italia così semplicemente. Quindi insomma, queste sono ottime ragioni per andare a Bologna sabato. Vai. Basta così, tocca a Duccio. Salute. I didn't realize as love. Get this hold over me. I feel like the playing field is just not level, because I'm tired and disheveled from days of contemplation. Why do you gotta smell so good? Why you gotta be so damn articulate? Yeah, I'm a straight to take over you and me. Now I clearly got a situation. I won't belong to you and put all my faith in you. I won't belong to you and make love to you. Got game like Zelda, mic be withheld. Collect rap, try force to get a new realm. Them talk bad, cause me no spit like them. Nintendo beat original, it ain't hard to tell. Mr. Bigger sound, yo, it ain't hard to tell. Like, sticky fingers on the MVC, sound like these. Sample the please, collaboration, hugs and smoking some trees. Intoxication, thugs with Nintendo Wii's. Nunu, I got you Nunu, the sound from Fee. Overnights like Tommy, be all you can be, right? Funny how we keep it on and on. Word is born, rocking tracks to the break of dawn. Simple, MC's all mental, cause the sample, they feel it's off tempo, off tempo, off tempo. La gila, vendo un pianeta come Satarra. Faccio una dieta a base di fish and chip. Mecco e crisp e merda. Cerca questo MC su Wikileaks. Sac my dick is that zit. Sto cucì, all'orecchio ritta, chiaro come l'HD. Produco l'HC, la pila, la gila. Il beat da zona islamica. Pratica metrica erratica sopra la cloaca massima. Piove peso, la via si allaga. Il diavolo veste nanga, maschenata. Faccio se sono molesto, moresto tra una tappa che amo, una mappa che detesto. La mattina presto, il cielo è blu cobalto, e terzo, l'obiettivo è andare in alto. È un progetto, è un progetto, è un progetto, è un progetto. Per uccidere la noia, porca troia, vado a piedi, a zonzo, per via Scialoia. Ai ai ai. Genti, meno ambienti, prepotenti, elementi pensanti, salti banchi, e qui la festa, in cui nessuno resta, questa protesta, testa a testa. Weed cookies, they're good for you. If you come home from jail and you can't smoke for your PO, eat a weed cookie. Get around it, beat the system, one way or another. Keep it real. Get a 9-to-5. Hustle your mind. Do whatever you gotta do to make ends meet, so you don't feel the pressure. biatch. Attenzione, oh. L'ospite misterioso. L'ospite chi è? Cioè, dopo due anni oh, ce l'ha fatta. Parcheggiatore fantasma. In studio con noi. Grande, un saluto a Umberto Saba che ci ha raggiunto in calcio d'angolo in ufficio. In ufficio addirittura. Io c'ho ancora la testa al lavoro. In studio, te ne rendi conto? Allora, io te vieni dietro, come si dice, te seguimi. Io dico giusto un paio di robe che ho suonato. Innanzitutto, prima che me ne scordi, ho suonato un paio di pezzi di una compilation che uscirà su Tokyo Down, che è l'etichetta di Opolo, o Opolo, non mi ricordo, non so come si pronuncia. E si chiamerà The Hertz Volume 2, e il secondo volume di una compilation che era già uscita tempo fa. Io ho suonato anche un pezzo dove c'è Diana Kroll, che è una nota jazzista canadese, una nota pianista canadese. Poi passiamo avanti, ho suonato anche un dei beat di questo produttore del Trentino, produttore hip hop, che si chiama Amon, e potete andarvi a scaricare le cose a gratis sul suo Bandcamp, che si chiama Amon Red Blue LED, blu scritto BLUE, quindi Amon Red Blue LED.bandcamp.com. Io ho suonato prevalentemente roba dall'EP Super Soul Classic, che è del 2010, comunque c'è un sacco di altri beat tape e robe anche con poi cos'hai messo, dai? Poi non me lo ricordo assolutamente più, vecchio. Cioè, un papiro di un metro. Sì, ma in realtà c'è un numero di telefono con scritto handbike, quindi non so cos'è quest'altra roba. L'ho rubato da qua sopra. Nulla, posso buttare lì così che è uscito in settimana il disco nuovo di Casino Royale, e che se andate sul loro sito casinoroyale.it ve lo potete ascoltare tutto su SoundCloud. Commento perché, a caldo perché c'è gente che ride, vabbè. Basta, io direi che ho finito le robe. Comunque, tanto tutti i link, riferimenti a cose suonate, a persone, è tutto online, sono sì. Puramente casuali, sono tutti online. Te, Umberto, che ci devi dire? Niente, devo dire. Niente? Chi è il prossimo? No, io so invece, cioè, mi è giunta una voce che il prossimo beat a confronto lo farà qualcuno qui dentro, non so. Non, qui dentro, non si sa. Che non è biga. Che non è biga. Quando sarà pronto nel 2020? Nel 2020 arriverà, Bene, lasciamo fino alle 22:28 circa, visto che non può iniziare e 30, ma deve iniziare sempre a 28. Lasciamo le selezioni di Tommy e noi ci vediamo lunedì prossimo, che è una delle ultime puntate, se non mi sbaglio. Non si sa quando finiremo, però si sa che è una delle ultime puntate. A lunedì prossimo, un salutone anche da parte di Umberto Saba. Ciao a tutti. derrotado y lleno de tristeza. Hoy mi corazón yo me lo llevo, derrotado y lleno de tristeza. Se lo llevo a otra que lo quiera, siempre que es un amor verdadero. Se lo llevo a otra que lo quiera, siempre que es un amor verdadero. Triste y solitario en mi bohío, creí que mucha falta tú me hicieras. Triste y solitario en mi bohío, creí que mucha falta tú me hicieras. Pero me llegó un amor sincero, en el cual ahora yo confío. Pero me llegó un amor sincero, en el cual ahora yo confío. Derrotado y lleno de tristeza, derrotado y lleno de tristeza. Se lo llevo a otra que lo quiera, siempre que es un amor verdadero. Se lo llevo a otra que lo quiera, siempre que es un amor verdadero. Allá lo mata la pasión. Vuelta a mí, no te... fiesta de sonero me mandaron a cantar. Que en una fiesta de sonero me invitaron a participar. Allí estaba Chivirico, también Cheo Feliciano, entrando a Héctor Lavoe, estaba Ismael Rivera, el brujo de Borinquén. En eso llegó Monguito, con su nuevo tumbadito, llegó Adalberto, Pite el Conde, Ismael Quintana, Justo Betancourt. Y cuando empezó la rumba, el coro allí se encendió. Que la fiesta de sonero ya empezó. Porque yo le traigo un río de mi música cubana. Yo no quiero que pare la música brava. Yo no quiero que pare la música brava. Como la banda que tengo, no hay quien lo pueda sonar. Como la banda que tengo, no hay quien lo pueda sonar. Con este mi grupo bravo, salsa para armonizar. Yo no quiero que pare la música brava. Yo no quiero que pare la música brava. Mira lo que traigo yo. Salsa nada más. Para que lo bailes. Salsa nada más. Para que lo escuches. Salsa nada más. Oye, que ven pa' acá. Salsa nada más. Que va a bailar. Salsa nada más. La mujer del cocinero. Salsa nada más. Sé que no quiere nada. Salsa nada más. Que el viejito le pide. Salsa nada más. Y que con salsa nada más. Salsa nada más. La mujer que tengo se pone celosa y guapa, porque estate tranquila, que yo no te cambio por nada en la vida. Déjate de cosas, estate tranquila, que yo no te cambio por nada en la vida. Te quiero y me quieres y son para ti mis besos. Deja en paz descanse. Para la gente de Cali. Siento la nostalgia de estar en Cali, la plaza Caicedo. Caleña.